Mix 24, i gialli della storia. Non c'era verso di socializzare con loro, e non per colpa nostra. Erano i dirigenti sovietici che glielo impedivano. Perdere non è mai piacevole, ma perdere contro un americano ti mandava veramente in bestia e ti rendeva più triste. C'erano molte più cose in gioco. Non era solo un incontro di basket. Sono le voci di alcuni degli atleti che si sono sfidati negli ultimi 70 anni. Ma dietro la competizione sportiva c'è molto di più. Per più di mezzo secolo lo sport è stato uno dei terreni su cui si è svolta la partita durissima della Guerra Fredda. E lo stiamo vedendo di nuovo anche oggi con le accuse di doping alla Russia. Gli avversari sono le due più grandi potenze del mondo, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Oggi a Mix 24 riviviamo quella sfida tra sport e politica e per farlo racconteremo la storia dei giochi olimpici partendo dall'Olimpiade di Londra del 48. Che i giochi olimpici siano una straordinaria macchina per la propaganda lo si era capito già nel 36 quando Hitler inaugura i giochi di Berlino. Ne parla lo storico Alfred Sen. Si è parlato molto del ruolo di Hitler in quelle Olimpiadi. A me piace invece ricordare che 4 anni prima, in occasione delle elezioni americane, il presidente Robert Hoover decise di non sfruttare l'apertura dei giochi di Los Angeles del 32 e poi non venne rieletto. Hitler invece aprì i giochi di Berlino e si fece una grande propaganda. Forse è per questo che nel 1984 non si riuscì a tenere Ronald Reagan lontano dai giochi di Los Angeles nemmeno con la forza. Insomma, le Olimpiadi vengono incorporate nelle campagne elettorali. Ma quando appare sulla scena internazionale l'Unione Sovietica che contende agli Stati Uniti il dominio del mondo, la sfida diventa guerra fredda. E la competizione sportiva diventa propaganda. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è Stalin che decide di lanciare la sua sfida anche nel mondo dello sport. Questa è la ricostruzione dello storico Valery Steinbach. L'Unione Sovietica venne così invitata alle Olimpiadi di Londra del 1948. Fosse stato un paese normale, ci si sarebbe chiesto semplicemente se accettare o meno. Stalin invece chiese ai suoi: siamo in grado di andare e vincere? E soprattutto, siamo in grado di battere gli Stati Uniti? Nessuno volle assumersi la responsabilità di dire sì. E quindi l'invito del Comitato Olimpico venne respinto, rimandando a un futuro prossimo il debutto della squadra sovietica. Desirous of participating in them, in the true spirit of sportsmanship, for the honor of our country. And for the glory of sport. E così a Londra l'Unione Sovietica manda solo degli osservatori. La delegazione sovietica era di altissimo livello. 12 osservatori delle più importanti discipline sportive guidati da un generale. Al ritorno la delegazione presentò un rapporto dettagliato a Stalin che rifece i suoi calcoli e prese le contromisure del caso. Cosicché 4 anni dopo, quando giunse l'invito ufficiale per le Olimpiadi di Helsinki, la risposta sovietica fu finalmente positiva. La Finlandia è una sede problematica per il debutto nel panorama olimpico dell'Unione Sovietica. I rapporti conflittuali tra i due paesi risalgono alla Seconda Guerra Mondiale e con l'avvicinarsi dei giochi le tensioni politiche e diplomatiche si moltiplicano, al punto che per gli atleti sovietici viene costruito un villaggio olimpico separato. La delegazione sovietica, la sua prima partecipazione olimpica, riesce a portare a casa 71 medaglie, piazzandosi seconda nel medagliere generale subito dopo gli Stati Uniti. Lo raccontano per noi l'atleta americana Pat McCormick, per 4 volte medaglia d'oro di tuffi, e il membro del Comitato Olimpico per i russi Igor Ligachev. Nel 1952 ad Helsinki ero molto eccitata perché partecipavo per la prima volta alle Olimpiadi, ma sicuramente il fatto più importante fu il debutto dei sovietici nel panorama delle competizioni mondiali. Era una situazione strana, come se la delegazione russa fosse stata imprigionata su una barca e non si volesse che gli atleti socializzassero con noi altri. Ma siamo diventati amici lo stesso. Negli spogliatoi ci si abbracciava, anche se non parlavamo la stessa lingua. E durante la gara loro hanno fatto il tifo per me e io per loro. Anche se il governo dava dei premi ai campioni olimpici, i nostri atleti erano motivati soprattutto dagli stimoli morali che esaltavano il loro ruolo nella società sovietica. C'era soprattutto il rispetto del nostro popolo per chi si distingueva nelle competizioni internazionali e gli atleti ne andavano orgogliosi. A Melbourne nel 1956 la geopolitica fa il suo ingresso ancora prima della cerimonia di inaugurazione. Colpa della crisi di Suez, ma ancor di più dei carri armati sovietici che sono entrati a Budapest per reprimere nel sangue la rivolta ungherese. La semifinale di pallanuoto tra Unione Sovietica e Ungheria è una vera e propria battaglia all'ultimo sangue. Il campione olimpico ungherese Dezso Gyarmati e il russo Boris Goykam sono avversari in quella partita. Il mio sentimento nei confronti dei sovietici? Come poteva essere? Loro erano a Budapest con i carri armati e ammazzavano i miei amici che lottavano per la libertà. Non potevo provare simpatia per loro. Li odiavo. Certo, adesso riguardando indietro nel tempo, posso dire che in fondo io non ce l'avevo con i russi come giocatori, come sportivi. Erano anche i miei amici. Però io non potevo dimenticare quello che stavano facendo a casa mia. Negli spalti c'erano quattro ungheresi, con le bandiere dei collaborazionisti fascisti. Su 15.000 spettatori, 13.000 erano ungheresi. E c'erano tutte le premesse per una partita tesa e violenta. Dalle tribune volavano oggetti di ogni tipo, ma noi non avevamo paura. Certo, eravamo molto agitati. Io conoscevo molto bene la squadra ungherese. In particolare Gyarmati, che era il più forte. Quindi consigliavo ai miei compagni di giocare sempre molto duramente su di lui. Negli ultimi due minuti della partita è successo di tutto. Uno dei nostri giocatori è entrato duro su un ungherese, su Zador. Me lo ha colpito in faccia. Una ferita molto profonda. Il pubblico urlava, macellai. Ha attraversato tutta la piscina, trascinando una scia di sangue. E poi, quando è uscito dall'acqua, sembrava uscito da una macelleria. Quando siamo partiti, anzi scappati da Melbourne, mi ricordo che al porto c'era una gran folla. Erano ungheresi emigrati in Australia che urlavano contro di noi. Non farete una gran strada! Speriamo che la nave affondi e finiate in pasto ai pescecani. Ma nonostante questo episodio, per l'Unione Sovietica le Olimpiadi di Melbourne sono un trionfo. Con 96 medaglie contro le 74 degli americani, l'Unione Sovietica sembra aver distrutto, dopo sole due partecipazioni olimpiche, il mito della supremazia sportiva americana. Ed è proprio Larissa Latinina, campionessa di ginnastica artistica, a raccontarcelo. Mi ritengo fortunata per aver partecipato a tre Olimpiadi. A Melbourne nel 1956, a Roma nel 60 e a Tokyo nel 64. In tutto sono riuscita a vincere 18 medaglie, 9 d'oro, 5 d'argento e 4 di bronzo. Certo, è una cosa che mi riempie di orgoglio, ma la mia più grande soddisfazione è che ho sempre gareggiato per me, per il piacere che mi dava l'esibirmi sul tappeto. Il allenatore non mi diceva mai: tu devi vincere. Mi diceva: fai quello che solo tu sai fare. Beh, è ovvio che quando si vinceva si pensava anche ai trionfi che ci attendevano in patria. Mi ricordo che al ritorno da Melbourne, in treno, sulla Transiberiana, la gente ci aspettava a tutte le fermate, anche le più piccole, per festeggiarci. Ci chiedevano di scendere dal treno, ci abbracciavano e ci lanciavano in aria. Era bellissimo, perché ti rendevi conto di aver reso felice il tuo popolo. Il 25 agosto del 60 si aprono le Olimpiadi di Roma. Sul podio sfilano atleti di grande valore che si imporranno nella vita oltre che nello sport, come Cassius Clay, il leggendario Muhammad Ali, che vince la medaglia d'oro nei pesi massimi, Nino Benvenuti, stella del pugilato italiano, e ancora Vilma Rudolph, la gazzella nera che affascinerà pubblico e atleti, riuscendo a vincere 100 e 200 metri, e infine a Bebe Bikila, l'etiope dai piedi scalzi, che trionferà nella maratona. Le Olimpiadi di Roma confermano la supremazia sovietica, 104 medaglie contro le 71 vinte dagli Stati Uniti, dimostrando la straordinaria efficienza cui era giunta la scuola sportiva di stampo socialista. Ne va orgoglioso Vitali Smirnov, membro del Comitato Olimpico Internazionale. Nello sport è innanzitutto il materiale umano che determina le condizioni per il successo, ma serve anche una preparazione adeguata, quindi scuole, strutture sportive e centri di ricerca che siano attrezzati per poter perfezionare le tecniche delle varie discipline. Qui da noi, ai tempi dell'Unione Sovietica, queste condizioni erano tutte presenti e questo spiega i nostri grandi successi sportivi. A Tokyo nel 64 la supremazia sovietica ha un'ulteriore conferma. Il bottino delle medaglie finirà 97-90. L'atleta russa Tamara Press racconta di quell'atmosfera. Che ci fosse una grande differenza tra noi e gli americani era ovvio. Noi rappresentavamo un paese socialista e ogni nostra vittoria diventava un riconoscimento dei progressi fatti dall'Unione Sovietica nel campo dello sport. Vincere aumentava perciò sia il prestigio del tuo paese che il tuo prestigio personale. E proprio Tamara Press è stata al centro delle più accese polemiche negli anni della Guerra Fredda. La sua assenza dai giochi di Città del Messico del 68, quando per la prima volta furono introdotti i test ormonali sugli atleti, venne vista come una prova indiretta del fatto che in Unione Sovietica si usassero sostanze illecite per forgiare i campioni olimpici e soprattutto le donne. Tamara si difende così. Ho già risposto mille volte a questa domanda e per me la questione è chiusa. Io ormai ho una certa età. Andate a vedere le atlete che hanno fatto uso di ormoni. Andate a vedere come sono ridotte. Io alla mia età sono ancora una donna. Alle Olimpiadi del 68 le polemiche si scatenano prima ancora dell'inizio dei giochi. D'altronde gli elementi di tensione extrasportivi ce n'erano già tanti, dalla guerra del Vietnam al maggio francese, dall'assassinio di Martin Luther King alla repressione sovietica della primavera di Praga. La campionessa russa, Larissa Latinina, intanto è diventata allenatrice. Alle Olimpiadi di Città del Messico, io ero l'allenatrice della squadra di ginnastica artistica. E devo dire che gli atleti della Cecoslovacchia furono molto, molto aggressivi con noi sovietici. Come se fossimo stati noi in persona a mandare i carri armati a Praga. La squadra ceca portava addirittura il lutto, indossando sempre una tuta nera. Mi ricordo ad esempio che Vera Ceslavska, una ginnasta di cui in realtà mi consideravo un'amica, perché la conoscevo da tempo, quando eravamo in pedana per gli allenamenti non voleva rivolgermi la parola, né mi salutava. Non lascia indifferente nemmeno la protesta muta di Tommy Smith e John Carlos. Un'immagine simbolo di quei giorni sono i due sprinter di colore americani che decidono di sconvolgere il rituale della premiazione dei 200 metri salutando il pubblico a piedi scalzi e col pugno chiuso e inguantato di nero. 24 ore più tardi la protesta si ripete alla premiazione dei 400 metri. Stavolta sono tre gli atleti di colore sul podio e portano in testa quel basco che è simbolo inconfondibile delle Pantere Nere, l'organizzazione politica radicale dei neri americani. Per il campione americano Al Herter è un episodio che non si dimentica. Furono espulsi tutti e cinque dal villaggio olimpico per ordine dei dirigenti della squadra americana, che si sentirono ovviamente imbarazzati. Ma ripeto, fu una protesta sincera. E come si fa a reprimere un gesto di protesta se viene dal profondo dell'animo, se chi l'ha fatto ci crede fino in fondo? A Città del Messico cade in un certo senso il muro dell'ipocrisia. Appare chiaro a tutti, in primo luogo agli atleti, che lo sport non è e non poteva essere un'isola felice separata dal resto della società. Appare ancora più chiaro quattro anni dopo. Martedì 5 settembre del 72 a Monaco si assiste all'episodio più tragico della storia delle Olimpiadi moderne. Sono le 7 del mattino, un commando di terroristi palestinesi ha fatto irruzione nella palazzina del villaggio olimpico che ospita la delegazione israeliana, uccidendo due atleti, prendendone altri nove in ostaggio. Violata la sacralità del villaggio olimpico, i giochi vengono sospesi. E nell'angoscia generale inizia una lunga trattativa con i terroristi che va avanti tutto il giorno, finché a tarda sera non arriva la svolta. Al comando viene concesso un aereo su cui salire con gli ostaggi, così il ricordo di Vitali Smirnov, membro del Comitato Olimpico Internazionale. A seguire le trattative per il Comitato Olimpico fu il nostro collega egiziano, Tuni, che ci teneva costantemente informati. Ovviamente eravamo tutti scioccati e seguivamo le trattative con l'angoscia nel cuore. Tutto sembra procedere secondo gli accordi, quando improvvisamente in aeroporto entrano in azione i tiratori scelti e le squadre speciali tedesche. È un blitz maldestro a cui il comando palestinese reagisce con rabbia. Il bilancio è durissimo. Nel conflitto a fuoco muoiono 5 degli 8 terroristi, un agente tedesco e soprattutto i 9 ostaggi. Una tragedia senza precedenti che spinge molte delegazioni a chiedere la chiusura immediata delle Olimpiadi. Ancora Vitali Smirnov. Ci siamo riuniti quella notte stessa per decidere. Il presidente del Comitato Olimpico, Avery Brundage, scelse di andare avanti. I giochi devono continuare, disse. E con lui si schierarono tutti gli altri membri. Fu una decisione unanime. E quelle di Monaco passeranno alla storia come le Olimpiadi insanguinate costrette a confrontarsi con i nodi risolti della politica internazionale. Ma per rendere omaggio alle vittime del terrorismo non si va oltre una mesta cerimonia allo stadio. Show must go on, si difendono gli organizzatori. Lo spettacolo deve continuare. Questa è la ricostruzione dello storico Alfred Senna. È una questione ancora aperta. Avery Brundage decise di non sospendere i giochi perché pensava che le Olimpiadi nella loro essenza mistica fossero al di sopra di ogni considerazione politica e quindi al di sopra anche della morte. Non bisogna poi dimenticare che c'era già stato il precedente di Città del Messico nel 1968. E anche allora, nonostante le violenze di piazza e i morti, i giochi non si fermarono. Secondo me, in questi casi, è molto difficile decidere. E la storia delle Olimpiadi ci dice che i giochi, qualunque cosa succeda, non si fermano mai. Ma è soprattutto nel basket che a Monaco la rivalità tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si infiamma al punto da sfiorare l'incidente diplomatico. Con un canestro realizzato all'ultimo secondo, i sovietici ribaltano a sorpresa il risultato della finale, che li vedeva sotto di un punto, e vincono per la prima volta la medaglia d'oro. Ma il sorpasso avviene in una bolgia di urla, fischi, applausi, in un mare di polemiche che si trascinano fino ai giorni nostri. La ricostruzione del membro americano del Comitato Olimpico Robert Paul Jr. e dell'oro russo del basket Ivan Niedesko. The nastiest È uno degli episodi più tristi della storia dello sport. Con una rimonta eccezionale avevamo superato i sovietici ed eravamo un punto sopra di loro, con soli 3 secondi da giocare. Ma quel maledetto arbitro diede ai sovietici 3 chance, resettando il cronometro ogni volta. Noi ci siamo appellati alla giuria, ma non c'era verso di farsi ascoltare perché dei 5 membri della giuria, 3 appartenevano a paesi dell'est, mentre solo 2 erano occidentali. Il risultato della finale del 1972 è giusto e meritato. Non capisco perché gli americani non vogliano accettarlo. Forse perché continuano a illudersi. Ma se fossero stati veramente loro i più forti, non avrebbero certo dovuto aspettare gli ultimi secondi per vincere. Sono 30 anni che si atteggiano a vittime. Questa fine ingloriosa di una stupenda partita di basket forse può essere considerata come un eccellente esempio di cosa succede nella politica internazionale. Qui abbiamo 3 dei 5 membri della giuria che rappresentano paesi del patto di Varsavia. E certamente il loro atteggiamento e le loro decisioni erano univoche. L'Est Europa contro il resto del mondo. Noi lo sapevamo e per questo è finita come sappiamo. Per questa mancanza di sportività, la nostra squadra si è rifiutata di ritirare la medaglia d'argento, che è tuttora custodita in una banca svizzera. La medaglia d'oro è quella che ci spetta di diritto. Alle Olimpiadi di Montreal del 76 fa la sua comparsa la Cina comunista. Proprio allo sport deve il suo rientro nella comunità internazionale, fortemente voluto dagli Stati Uniti. Fu infatti la visita a Pechino della squadra statunitense di tennis da tavolo all'inizio degli anni 70 a spianare la strada del segretario di Stato Henry Kissinger in quella che passerà alla storia come la diplomazia del ping pong. Alle Olimpiadi dell'80 la Germania dell'Est si conferma grande potenza sportiva piazzandosi al secondo posto nel medagliere, ma quella di Mosca è un'Olimpiade zoppa, dimezzata, che vede presenti solo 80 delegazioni. Mancano gli Stati Uniti e con loro Cina, Giappone, Canada e Germania occidentale per protestare contro l'invasione dell'Afghanistan. E a Los Angeles, 4 anni dopo, si recita lo stesso copione a parti invertite. A Barcellona nel 92 il copione completamente diverso. 6 mesi prima Gorbaciov ha annunciato la dissoluzione dell'Unione Sovietica. La Germania di nuovo unita, le ex repubbliche socialiste gareggiano per l'ultima volta insieme. La fine della guerra fredda ha chiuso per sempre un sipario, ma il rapporto tra lo sport e politica, come stiamo vedendo in questi giorni, è destinato a scrivere nuovi importanti capitoli.